Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa in questa che è giornata di Consiglio europeo. Questa sera, domani a Bruxelles, l'agenda recita energia, ma come spesso accade in queste occasioni in cui si incontrano capi di Stato e di Governo, in realtà si parla dell'agenda dell'attualità, quindi si parlerà naturalmente di quanto accaduto e accade in Tunisia, della crisi ucraina e della Grecia. Allora, ripartiamo proprio da questo punto. Una soluzione sul caso Grecia sarà possibile solo se si trovano degli accordi e se tutti si attengono a questi accordi. E una soluzione si può trovare solo sulla base degli accordi già intervenuti nell'Eurogruppo del 20 febbraio. Questa citazione la attribuiamo, visto che è sua, ad Angela Merkel, quindi cancelliera tedesca, che è intervenuta al Bundestag. Come dire, la situazione di accordo con la Grecia annunciato già alla fine della scorsa settimana non è poi così semplice. La Merkel ha aggiunto: nessuno si aspetta una soluzione proprio oggi a Bruxelles o magari lunedì, quando il premier Alexis Tsipras si recherà in visita ufficiale a Berlino, ci sarà anche l'occasione per un faccia a faccia. Ma ha proseguito la cancelliera: gli esiti di questa visita, la prima del premier greco, non potranno sostituirsi alle intese già prese a livello collegiale degli europei. Come dire ai cari amici greci, insomma, parliamo di tutto, ma tenete ben presenti gli accordi sottoscritti, firmati dalle parti il 20 febbraio. Altro tema caldo riguarda l'Ucraina. Il premier ucraino, appunto, Yatsenyuk, ha chiesto all'Unione Europea di restare unita sulle sanzioni contro la Russia. Perché lo fa? Lo fa perché è preoccupato dalla scadenza naturale di questi strumenti di pressione, le sanzioni dunque, che di fatto intorno a luglio scadono. Yatsenyuk ha affermato che il più grande successo del presidente Vladimir Putin sarebbe proprio quello di dividere gli europei. Se Putin rompe l'unità tra gli stati membri, sarà il più grande successo per il Cremlino. Naturalmente questa è un'ipotesi che preoccupa Kiev, ma che preoccupa parecchio anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Donald Tusk è polacco, ha, come abbiamo raccontato molte volte, una visione molto precisa della crisi ucraina. Meno precisa, meno partecipe, possiamo dire, ce l'hanno molti capi di Stato e di Governo europei, magari Italia compresa, per i quali le sanzioni ovviamente sono un pesante costo economico, un costo economico che grava su chi le impone, dunque in questi casi gli europei, e naturalmente sulla Russia. Staremo a vedere. E ora parliamo di divorzio. Il divorzio breve è un passo dall'essere legge in Italia. Ieri il sì del Senato, ora il testo va alla Camera per l'approvazione definitiva. L'Italia intanto rimane tra i pochissimi paesi in Europa ad avere ancora tempi di attesa tra separazione e divorzio, e soprattutto ad avere i due gradi di giudizio. Le procedure di divorzio variano molto da paese a paese, ma cosa succede nei casi di coniugi di nazionalità diverse all'interno dell'Unione? Quindi quale tribunale ha la competenza? Quale legge viene applicata? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto all'avvocato matrimonialista Andrea Gragnani, esperto di diritto di famiglia. I cittadini europei hanno la possibilità di rivolgersi al tribunale di residenza oppure al tribunale di cittadinanza di uno dei coniugi, o ci sono comunque vari criteri. Insomma, è molto ampia la possibilità di scelta. Faccio un elenco velocissimo: il tribunale della residenza abituale dei coniugi, oppure dell'ultima residenza abituale dei coniugi, oppure della residenza abituale del convenuto, eccetera, eccetera. Ma la cosa più importante è che i coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile. Perché in casi in cui ci sono soggetti di nazionalità diverse, bisogna porsi il problema di quale legge applicare, perché ci sono come minimo due leggi nazionali diverse che possono essere applicate, e poi c'è anche la legge di residenza del paese, e quindi potrebbero esserci anche più leggi, addirittura quattro leggi tra cui scegliere. Per temi come questi si può immaginare una futura omogeneizzazione delle norme in Europa? Non lo so, francamente non so risponderle. In questo momento si tende ad avere dei regolamenti che disciplinano questi aspetti che abbiamo trattato, cioè competenza e legge applicabile, però non esiste in questo momento un progetto di uniformare a livello europeo la legislazione degli stati. Questo dunque è il quadro della situazione attuale e con questa intervista chiudiamo questo appuntamento. Naturalmente torniamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.